sono al minimo di fatto, non con un fatto. Non posso farci così. Guarda adesso a vedere. Avevo solo un... Al massimo. Era al minimo. Allora va bene, ritiro, perché vuol dire che questo segnale io l'ho segnato quando avevi l'altra radio che usciva più forte. Allora va bene. Allora se sei con 2 watt Santiago 7, praticamente se usavi l'altra radio è di 9, quindi era ancora più alto. Va bene, va bene. Il cambio a chi spetta? Non lo so. Aspetta, Eugenio, dammi a me un controllo invece. Se arrivo, produttore, se quanto arrivo, grazie. Buonasera a tutti, Camero. Ciao, oggi io ti volevo salutare, ma non abbiamo il tempo. Ciao, ma sono io, non mi chiedo, grazie. E allora, ti volevo dare un rapporto in segnale, prima di noi, adesso sei io. Tutto qua. Carichi tu, Caimano. Ehi, Emiliano, la produttrice. Ciao, Emiliano, buonasera, ben ascoltato. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, Emiliano, da già. Ciao Emiliano, buonasera, avanti ti. Vabbè, va. Mi ascolti Emiliano, buonasera. Sì, Santiago 5, la radio è buona, 4, 5. Io 5, 5 e 7 di picco di modulazione. Radio un pochino impattato. Ero io che ti ho mandato un messaggio. Buonasera, buonasera a Porto. E poi Torres. Buonasera, buonasera. Aspetta oggi, e con questo invece quanto ti arrivo? Comunque mi hai detto 9, con questo? Con questo un po' più in basso, vero? Sì, ma molto più basso, aspetta. E quando è 7? Un rapporto, aspetta che cambio radio. Non te l'ha già dato il controllo. Da 7 con quello col K e 9 con quello là attaccato. Un pochino poco mi sembra. Vabbè, loro sono all'interno di Porto Torres, però Eugenio no, Eugenio è vicino a Antonello, quello che ti ha dato 9 più 20 ieri. Aspetta un attimino, adesso questo qua è l'altro, il piccolo, Eugenio. Non devi andare ancora che mi servono le tue radiazioni. Già va bene, dai. Oggi c'è una parte di Radio Nuovo che è venuto, che c'è dentro, che è dentro, di Bio Scarcine. No, è che già avevi delle radio buone che hai tenuto la più scarsa, va, va bene, va. Ok, avanti, qua. Dai, la procuriamo anche a Eugenio una radio buona, un po' di pazienza ci vuole, principalmente fate le cose fatte alla Cimbrana. Ascolta Emiliano, invece io con questo Galaxy 15 watt modulati, quant'è il mio segnale di Porto Torres? Quando parlo lo vedi. Sociale picchi allucinante sta radio Massimiliano. Lo vedo da qua, guarda. Lo vedo da qua, c'ho il wattimetro inserito, 10 watt di portante, quasi 20 modulati, 22 anzi, quasi 22 modulati. Una bombetta che tu gassi, una bombetta. Anzi, va bene, anche tu sei 9, Emiliano. Santiago 9, Radio 5 a Riffi. Va bene, per essere così, dai, già va bene. Avanti Gianni. Aspetta, ti devo dire qualcosa, Emiliano, Emiliano, lei ha un po' di volte, là. Quindi lo so che arriva bene. Emiliano, il mio segnale com'è? Mi date 2 secondi, Emilia, che poco stavo cercando di parlarti. Mi dai un rapporto qua con questa qua invece? Sentiamo qua di nuovo Radio 5. Certo, sono più basso, e no, più basso sempre di me, hai visto? E no, devo chiamo da padrino. E vabbè, io sono a me negativo qua, sono in una valle, tu mi salti. Sto scherzando, vabbè, è sempre questione di posizione, ma ti ricordo io c'ho il quadruplo della metà dei vatti che stai usando tu, sempre questione, anche perché io Emiliano lo sento Santiago 9 con picchia 9,5, ed è il rapporto giusto, anche lui mi sente così. 9,5, un picchia 9,10, mi pare che ha detto 9,5, non lo so, vabbè, però sempre 15 watt lo sto usando. Segnale più forte c'era Massimiliano stasera, ho già in bocca sotto accetto, sì. Io, non ho già fatto nulla, cosa sotto accetto? Cazzo sì, 9,25 quasi. Il più piccolo sono io. Ma claro, non ho già toccato nulla, boh, forse avrà scaldato adesso, prima quando sono entrato, boh. È un po' più basso, non ho fatto niente di alloggiare. E 9,20 con picchi a 9,25, una bombetta sì. Tu Antonio non va a vedere, ma tu c'è 9,30. Ma volevo fare, adesso ho salito, volevo fare una prova a Bordo Torres, come vado io a Bordo Torres? Ma non è 5, qua, di là, radio 4. Magari sono con un pochino di più quadro, per io per portarci, ma lo so perfettamente, devo mettere qualche pezzo in palo in più. Già mi sento tutti bene io, non è un problema. Antu, noi siamo sottoterra, però ci difendiamo bene, dai. Mi pare che attacco il drone. Ah, io attacco il drone, Massimiliano. Oh yeah! Non so che voglio fare una prova, quindi mi ha detto cosa, ma oggi quant'è B2, quant'è il mio segnale lì? Sette, così? Sì. Ok, va, 2 secondi, allora ti ripeto. Consentimi di smettermi. Vabbè, io non posso pretendere, però sono contento che mi ascoltino. Guarda, io non è che sono contento, sono soddisfatto da questa radio, veramente aveva ragione Doppio Root. Ha una potenza allucinante, ma secondo me questa l'hanno toccata, perché con 10 watt di portante vado quasi a 20 modulati, col wattimetro esterno, non con quello della radio. È una cosa pazzesca, a parte la ricezione che ha, però va molto bene. Ascolta Emiliano, ma cosa stai usando tu, un K o un Icom? K. E che K è? 440. 440, mamma mia, c'è di bongo umano che c'è radio, ragazzi. Mi pare un Icom. Un attimo, dai, io vado che non porto giù il cane, vi saluto tutti cordialmente, buon continuo questo, chiunque RT esecutivo. Tappa, dimmi già, che c'è un freddo da cane. Già c'è il cane. C'è un freddo da cane, veramente, ma freddo però, Tu metti la salita, gente a peso, mica non c'è cane appresso, vai piano, e te poi bisogna portare via laggiù. A Porto d'Ora, vieni qua in montagna, vieni, cazzo sei a livello del mare, dove? Qua siamo a 300 metri d'altezza. Ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato. Ciao Claudio, pensavo che non mi avevi sentito. Ho detto spegnete i baracchini che mi state disturbando, aiuto, che devo andare a cenare. Ciao Giulio, buonasera, sì, meglio di poc'anzi, come UG, poc'anzi nell'altro canale è più basso perché è in macchina. Sì, adesso ti sento, Santiago 8 ti sento, la radio è buonissima, non c'è problema. Un pochino più basso di quando avevi il 3009, però va bene ugualmente. Ciao a tutti, Gianni, Massimiliano e quanti ce ne sono, anche l'amico di Porto Torres che non ho mai sentito, questa è la prima volta che lo sento, avanti EUG. Ma mi fanno qua perché mi vuoi fare meno? Perché? Ciao Giulio, ciao. Ciao Tino, quasi 9.30 poc'anzi, alla grande, non c'è problema. C'è una super bomba atomica, di quella super reazione anche. Vabbè, ma purtroppo sono basso, capito? Basso, sì, già si vede che sei basso. Sì, sì, hai ragione. Adesso sei 9.20, ma poco fa è dei 9.30 circa, 9.28, dai. Per cui meglio di così, e vogliamo dire di più. Questa è vera pasta asciutta, tagliatelle, avanti Gianni. No, Gianni è andato a portare il cane, c'era Massimiliano che doveva fare una prova. Falla con Emiliano, poco fa ti ha dato il segnale Emiliano, falla con Emiliano. A me, boh, non so manco quanto mi ha dato Emiliano, boh, non me lo metto più. La mazza chi te ne varia. Non fa niente adesso, siamo 5. Va bene, va, ciao. Ha funzionato, però, Cazzo, ci canti Antonio Rocchi, la mazza che te ne varia. Cazzo, di 9.20 voglio fare, se sì, 9 più 30 a pieno. Sì, Giulio, però non conta, non conta, è inutile che le dai 9 più 30 a casa tua, siete vicini, lui deve arrivare 9 più 30 a Palottore, se sennò Tino non dorme. Mica faccio scaldare a 600 watt, no, sì, mica me la vado sullo 30 e faccio scaldare. Fai scaldare, fai, fai scaldare e accendo il drone. E una volta qua, ma posso, guarda. Ma da me Emilia? Sì, va bene. Sei pronto? Ma me Emilia? Ciao. Ragazzi, dai, ci sentiamo qua un pochino. Perive! Sì, a Perivella. Allora, Emilia, adesso sei passato 9 più 5 con picchi quasi a 9 più 10. Buonasera, la mano. No, sento, detto di bongomano in inizio radio, perché... Non sono convinto della modulazione, però adesso poi ricordandomi di quello che mi hai detto nel pomeriggio quando stavamo parlando con Antonello, è il microfono che non sta andando, capito? Se tu fai quel cambio al microfono vedrai come esci bene. Avanti, Bombolì! Ehi, AK! Eccomi qua, sono già arrivato! Mi ha perso, no? Capa, mi senti meglio, mi senti? A Porto Torres? Sono sì, erano 5 adesso. Capa, facciamo i bravi qua, 9.5 da me, Antonio, ciao. Emiliano, e a me mi senti con le orecchie? Ocla. 9.5, per favore. Ciao, Giulio. Dimmi, Massimiliano. Io? Chi è che ha detto Ocla? Ho detto l'Inter, l'Inter prima la sole adesso. Il Sciuscia lì della tutta rovina, me l'ho vista, me l'ho vista, ma Sciuscia, madre del Dios. Vabbè, devo dire qua. La Juve è perso, va. Vabbè, perché non lo sento quello di Porto Torres, se non arrivo a casa, sicuramente lo sento, se non lo sento a casa il problema è suo. No, la Juve gioca domani lui, gioca domani perché ha giocato entro settimana, capito? Gioca domani la Juve, adesso c'è l'Inter a 4 punti dal Milan, c'è, vabbè, la Juve deve giocare oggi e poi deve recuperare quella col Napoli, e vabbè, però l'Inter che sciuga, signor Giusto, l'hai vista Giulio la partita? Sì, l'Inter quest'anno vince il campionato, non c'è niente da fare per nessuno, anche perché è agevolata dal fatto che non deve fare più partite di Coppa, dunque gioca solo esclusivamente la domenica e di conseguenza si ritrova sempre ben riposata, oltre al fatto che magari rischia anche meno infortuni. Sì, indubbiamente, no, e poi c'è Lukaku che ha ripreso la grande forma iniziale del campionato, prima ha avuto una grandissima partenza, poi ha avuto una piccola pressione, adesso è ritornato alla grande, oggi ne ha fatto due, per cui no, anzi ne ha fatto uno, due ne ha fatto Martinez, Lautaro Martinez, no, grande partita, sì. No, l'Inter quest'anno è più forte, non c'è niente da fare, non ce n'è per nessuno. Auguri Luca. Vabbè, non è un sì, no, giù. Non sono d'accordo, mi dispiace, perché ancora non è finita il campionato, non è finito, non è un sì, no. Non ci spero proprio, va. Quando finisce, allora potrei dire, l'Inter ha vinto il campionato. Vabbè, quello sta puntando. quindi è chiaro che lo vince, è quello Giulio ti sta dicendo, non fa altre cose, a differenza della Juve, della Lazio, dell'Atalanta che sono in Coppa, sia in Coppa Italia, la Juve in Coppa Italia, in Champions, in campionato, sta giocando 3 volte alla settimana, come ti vai? Quindi Giulio ti sta dicendo appunto, siccome è molto forte già come squadra, è anche più riposata, lo vince. Ma non è che ho già fatto Perisic, Giulio, c'ha le fasce buone, c'ha le fasce e l'attacco buono, lo vince Luca, tutti i dì. Sì, ma l'Inter quest'anno, lo sto dicendo, sta andando alla grande, non c'è niente da fare, come ripeto, sembra così, ma il vantaggio di giocare solo esclusivamente la domenica o il sabato, la stessa cosa, è un grande vantaggio, perché le altre squadre giocano per dire ogni 3 giorni e a riprendersi poi non è semplice, non è facile, sembra facile, ma effettivamente il fisico nel riserva. Per cui avere 7 giorni di riposo sono sicuramente migliori di averne solamente 3, ci mancherebbe altro. No, alla grande quest'anno. E poi adesso a questo punto è galvanizzata, visto che è in testa, figurati se si lascia perdere l'occasione di andare avanti. Luca, ricordate una cosa, oltretutto, che i campionati si vincono soprattutto con lo scontro diretto, come è stato oggi, Milan-Inter. Intanto erano le uniche 2 squadre che potevano vincere il campionato quest'anno. L'ha vinto l'Inter, questa partita ha vinto l'Inter, e stai tranquillo che quest'anno l'Inter ce la fa. Va bene, dai, Gianni, ci sei? O hai portato il cane? No, è andato a portare il cane, Massimiliano aspetta, vai Massimiliano, e saluto a Emiliano Portotose, vai Massimiliano. Era da poco fa che cercava di salutare, ciao Emiliano, buona serata e buona continuazione, saluto anche a Giulio che non ha avuto la possibilità di salutarlo e qua, va bene, sono qua, riprendete. Noi deve riprendere, no, parliamo di calcio, lasciamo tutto come sta, il cambio per Gianni è uscito, chi c'era? Tino mi sembra detto si è allontanato, Antonio riprendi tu. Attenzione. Cappa dai, già pronto a mangiare, no? Che già vi stavo ascoltando da giù. Dai, ce la sentiamo dopo, ok? Adesso è pronto a mangiare, ce la sentiamo. Ma tu la sacchizione si ma niente. No, chissà se già mangiato, allora che ho fatto la pasta al petto. Bella, bella, buona. Avanti, Giulio. Sì, riprendo il microfono per salutarvi, dai, che qua è pronto il rancio, per cui devo scendere giù per la cena. Grazie per la piccola chiacchierata, io sono entrato un po' tardi, ma poc'anzi ero sull'altro canale con quello di Alghero, cioè con quello di Osilo e anche con Gianluca di Porto Torres. Salutone a tutti, grazie per la chiacchierata, scusate, vi devo lasciare, dai. Ciao Massimiliano, Antonio, Claudio, l'amico di Porto Torres che ho sentito per la prima volta, mi sembra che mi ha dato a Santiago 7 o 8, buono, non me lo ricordo più, ma non ha importanza. Salutoni a quanti ce ne sono in ascolto. Ascolto il finalino e dopodiché chiudo. Vai Massimiliano, vai. Ok, vai, ciao Giulio, buona cena, buon tutto. E ci sentiamo alle prossime, no? Vai già. Ciao Giulio, buonasera, buon tutto alle prossime, dai. Kappa, siamo rimasti e tu, Tino si è allontanato, Antonio sta mangiando, Gianni è andato a portare il cane, Eugenio è andato a farsi la doccia e Emiliano ha chiuso. Riprendi tu allora Kappa. Kappa raggio positivo e dai. E io. Va bene, ok. Quindi niente, per domani con la roba là che sei tutto a posto. Quello che mi è arrivato l'hai già dato, giusto? Ciao Giulio, alla prossima. Ah, mi Lugariello c'era, scusa Lugariello. Sì, già dato, consegnato, tranquillo, tutto a posto Massimiliano. Devi solo passare a prenderti i soldi. Capito? Avanti Lugariello. Dai, mi stavo mettendo le botte, adesso me ne sono gusto a casa, giù un brotto, la sciarpa, ci sentiamo fra un po', dai, perché mi devo finire un computer. Ci sentiamo fra un po', se ci siete, se no pazienza. Ma a piedi sali o in macchina? No, in macchina salgo. Facciamo un attimino a fare una commissione e poi vado a casa, va? Per Marina a piedi a girare sempre. No, Marina mi accompagna, no, sempre lì la macchina. Ah, ti accompagna Marina, salutala. K, lo carino. Dai, ci sentiamo dopo al limite, non c'è problema. Vai Massimi, hai capito cosa ti ho detto? Mi li posso spendere o te li conservo? Sì, te ne dire giù per il momento, va. Ciao Lucaria, ci sentiamo dopo al limite, va. Va bene, l'hai provata, quindi tutto a posto, perché non faccio la giusti al volo. Arrivato, dato, va benissimo. Sono soldi di tra me e me. Ah, state in banca. Sì. Poi non posso manco per le faccio per essere un pin. Sto aspettando che mi arrivi il pin. Ho fatto il duplicato, ci passano 6-7 giorni. KK, posso fare solo operazioni piccole, ma per levare un po' di soldi non posso. Cosa stavo dicendo? Sì, ottima operazione. Eh beh, hai fatto un'operazione favolosa. Ascolta, a proposito, la matta di Nevaia, ma tu hai venduto alle mie, i baracchini miei, quindi tu c'hai i miei soldi. Vabbè, a me mi lascia la differenza. Sì, vendute, tutte e tre. KK. No. Di lusso. Lo sai, mi ha mandato un messaggio, quello di Oristano, quello famoso, a usare, e un video tuo mi ha mandato, te lo giro? Via, ma non mi dire che era funzionante. No, arriviterò che non funzionante, ma funziona, che deve essere. Ah, visto, vai, allora di cose d'orani, come parliamo io e tu, no? Sinceramente parlando. Ciao Lugariere, dai, ci sentiamo da casa, saluta la Marina. Quindi avanti rubo tu radar, e tu vuoi ce la riposo? Aspetta, prendo il telefono. No, me lo dirà più e non lo voglio più, assolutamente. Cappa, avanti per il controllo. La radio non mi piace tantissimo, il segnale 6, però la radio non è perfettamente 5. C'è un po' di bailava, cioè, capito, come dice Tino. Vediamo un po' Claudio, che è più vicino, non lo so. Allora, una domanda e una risposta. Sei agganciato col Midland? Ah, ok. No, sei centrato ma sei saturo. Hai dato più potenza? Adesso va meglio. Così è Massimiliano. Adesso è una cagumba, hai calato leggermente di segnale, però adesso la radio è 5, perfetta. Sì, così è, e anch'io c'è qualche problema, però il segnale è giusto, poi invece quando parlano vanno tutti negativi anziché andare in avanti, non ho capito perché, eppure è così, i segnali sono giusti, non capisco, infatti mi sono spaventato quando l'ho provato, no, sei perfetto, ho provato a girare il clarifer adesso, sei perfetto, 27.075, ottimo lavoro, segnale 9+20, radio 5 adesso, prima invece di satiro, capito? Avanti Massimi. Ehi, è positivo, no, adesso infatti prima era Santiago sì, però la radio era un po' così, dai. Adesso sei perfetto. Sì, alla grande sta andando. Ascolta Claudia, ma la stai spegnendo dall'interruttore? Sì, da 220 la stai spegnendo, non da dove c'è il potenziometro, la stai spegnendo dall'interruttore rosso? Io sto facendo altre cosettine per te, non ti preoccupare. Devo portare il connettore per quel courier che l'ho comprato nuovo a 3, perché i fili sono 3 di quello, e per mettere il microfono te lo devo portare. Poi altra cosa, vabbè, già te lo dico per telefono, capito? KK. Avanti Massimiliano. Positivo, no, già l'ho sotto, perfetto. Siamo in una bomba, la pesce. Va bene, ok. Però domani mi organizzo a fare quella cosa a Francesco e lui domani spedisce. Bravissimo, ottimo, è bello anche quello là, è messo a posto, ho visto il video, molto bello. Però sicuramente quello di Francesco è un'altra guba. Ho visto il video anche di quello, è un'altra guba. No, questo, cioè, io non lo so se gli hanno fatto lo stesso lavoro, ma c'ho il wattimetro tuo attaccato a, allora, 10 watt di portante, 20 modulati. È una cosa impressionante. Eia, vabbè, no, così, non so se ho visto quello di Francesco. Tutto chiuso, 2 watt, già a 30 watt. Va bene. Io lo sto usando Adesso l'ho messo a 10, perché sono senza niente. Quando lo abbasso, che lo metto a 2 watt e mezzo, 3 watt, lo stesso picchia a 15, una cosa allucinante. Va bene, sono contentissimo di questo gas, e sono contento anche della radio che c'è a Claudio, perché funziona molto bene, anche quell'inter che va benissimo. È rimasto scioccato, ma si vede da quell'inuit Claudietto. Hai visto le radio chiuse a Sparviero come le mandano sempre nuove? Ma chi è che sta parlando? Il microfono schiaccia bene, aspetta. No, non lo sento più. Ma ok, il microfono schiaccia bene, il microfono che si è mancato di radio. No, non stai uscendo di radio, chiudi la terra, tocca qualcosa. Dale un colpo, sollevo, boom. Cazzo di appello, stai uscendo bene. E sei basso di radio. Prova. No, basso di radio, sì. Muovi il potenziometro, fai qualcosa, non so, avrà mangiato la batteria. Hai sentito un fumo? No, è nuovo il microfono, la batteria deve essere Claudia. Deve essere la batteria, mi sembra che quella lì era quella che c'era prima, non l'ho mai cambiata. Sicuramente si è mangiato la batteria. Controlla e poi rientri. Avanti, Tino. Massimiliano. Sono qua, va. Sentito che è rientrato Eugenio e Antonio. Vai Eugenio. Eugenio, Tino era? No, ero. Grazie a voi Eugenio, che ha chiamato Mr. Emanuele. Va bene, va. Riprendi allora tu, fa girare, va. Ehi, cappa, è successo a Claudio, no? Niente, subito è sparito, ma la batteria scarica sicuramente o qualche altra cosa. No, la batteria, il microfono, stava andando benissimo, cazzo 920, radio 5, sicuramente la batteria, no, ho visto Santiago 9, non era Eugenio, vabbè, comunque, K di Roger e K di Positivo, no, vanno bene Massi, vanno bene, bene e bene queste radio, veramente bene. Sono dispiaciuto, Claudio. E te ce stesso? Mi hanno cancellato da Facebook. Chi cazzo? E sei dispiaciuto? Io sono contento. Adesso non posso vedere più le salsicce, che... Ah, che te ne bloccandolo. Neanche i bambini piccoli, quelle sono persone che non hanno i contributi sotto, per non essere volgare, hai capito? Ha la coda di paglia qualche uno. Ah, ma non mi ha bloccato. Prima ha fatto un casino, capito? Invece di rispondere, di scusarsi, mi ha bloccato. Per carità di Dio. Ucci, vai Massimiliano, non voglio manco commentare, guarda. Però rimane il fatto che se mi torna ad arrivare una telefonata che c'è di nuovo il mio nome su qualche sito, stai tranquillo che venga a casa tua io. La prima cosa che mi uscito è che sono una risata. Non sei compreso? Invece di scusa, a me l'ho fatta apposta, pensavo ti facesse piacere, no, mi ha bloccato. Proprio senza guglioni. Avanti Massimiliano. Ehi, oh, vabbè, io non sono a quello così di bene, comunque. Non lo giaccio, avanti, Chiodo, vediamo un po' se ha ripreso Chiodo. Ma se ha arrugginito Chiodo. No, Claudia, c'è qualcosa che non sta andando bene. Poco fa era una cannonata, adesso sei tutto a pernacchie. Cosa è successo? Cazzo di sciolineare, mamma mia, sciolineare valvolari, io lo dimmo che sciolineare valvolari. Avanti Massimiliano, lasciate un attimo di bianco così magari se vuole entrare Chiodo. Oh, invece riprendo io, dai, mi hanno chiamato a cenare che è arrivata l'aria. Ok, io vi saluto, un abbraccio a tutti, lascio acceso, magari ci sentiamo dopo, Chiodo. Ma mi dico, non so cos'è vero, ma hai detto che può essere pericoloso che si lineare, dici che può scoppiare la valvola, vero? Guarda, io ne sto provando uno, Antonio, sto cercando di farlo scoppiare ma non scoppia. Va bene, ciao Claudio, ciao, siamo qua, per il momento. È vero o non è vero? Aspetta, Claudio, stai chiamando? Claudio, basso basso il radio. Aspetta che voglio chiederti un controllo dalle tue parti, che sto usando un valvolare, un Galaxy 1000, però con valvole diciamo alla, al 70%, dai, credo. Come sta andando da quelle parti? Ocla 9.15 Radio 5, va bene Claudio, ti saluto, dai, saluta mio tuo padre, dici che qualche giorno già lo chiamo al telefono, poi ci mettiamo d'accordo che glielo scendo con Claudio, oppure mi avvicino io, non c'è problema, dai. Ti ringrazio, salutamelo. Ah, mettici il microfono normale a provare se stai uscendo. Prova a vedere, no? Almeno se ci accorgiamo se è il microfono. Ciao Claudio, buona carica anche a te, vai. Sì, basso, però già sta uscendo, è la batteria sicuramente. Comunque, niente, fa fatica, ma devi tenere la portata inserita, non si media per un po', ma già arriva a 6. Ma capisci a me, le altre? Le altre un po' inferiori, però vanno comunque, solo che anziché lavorare in partenza sui 4 lavora sui 3. Ah, ecco. Va bene, va bene. Vediamo Chiodo, riprendi, vediamo un po' se ha cambiato il microfono. Vai tu, Antonio Bombo. Sicuramente ha avuto qualche piccolo problemino. Già, appena che sistema già riprende subito. Devo cambiare, Massimiliano, aiutami, come si chiamano, quei cilindritti blu, cacchio si chiamano, vabbè, quelli lì, 4 ce ne sono, non è un lavoro che posso fare io perché non so, su Gunigardo, Ma il condensatore? Veglia. Io non lo faccio, ma 4 condensatori. Ci vuole che devo andare a prenderli dallo stesso valore, quindi vogliono prima smontarti e poi portarti e cercarti, trovarti e quant'altro. Però vabbè, io sono comunicato, se mi ci metto lo faccio anche, ci vuole pazienza e tempo soprattutto, che non ho. Cappa. E vabbè, non c'è bisogno di smontarlo, portare il vecchio. Lo apri, fai una foto, guardi la sigla e ricerchi su internet, o da Fusaro, da qualche numero, da così, tanto saranno 500 microfoni lì, però sono quelli grossi, sono. Forse c'è una cosa anch'io qua. Sì, sono quelli grossi e qua sono aperto sino a passera, ho messo il tacco adesso, sono 4 viti, una cagata tutta, non è che ci voglia proprio di tanto, però ho notato che sono, non viene bene a fare proprio la foto per vedere cosa c'è scritto, capito? Sono un po' nascoste la sigla, però mi hanno confermato che cambiando quelli lì ritorna quasi allo stato naturale, dai, è stato buono. Allora già va bene, cambia quelli, costano pochissimo. E va bene, va bene. Ok, proviamo più la Ruggini, vabbè, chiodo, cambiatelo questo microfono. Vabbè, non le prende più, vai a tutti. Sicuramente sta controllando che cosa c'è, sta controllando l'apparecchio sicuramente. In queste condizioni, con questo apparecchio, come ti arrivo? Io 5 Santiago 9, aspetta che guardo quei condensatori che c'ho io, vedere da quanto sono. Guarda. Ehi, prova, là. Io sinceramente non li ho letti, ma seria, sono grandi, sono blu, però non so da quanto siano. Vediamo, va. Diciamo che sono contento che non va in saturazione, quello è la cosa che mi interessa. Sì, non è roba che io non ti ho mai sentito che va in saturazione, ma quella roba funziona bene, no? Non ci va in saturazione. Meglio, perché era chiuso in un mobile tantissimi anni, quindi diciamo che sta lavorando. Sta lavorando anche tanto bene, caspita, non può sì, adesso sta andando diciamo al 90%, perché quando più parli, più scalda, più produce. Però devi fare passaggi lunghi per salire. Sicuramente c'è qualcosa di scarico, perché quando sono cose nuove magari parte già impennato, capito? Lo so. Però guardi, la verità funziona, una meraviglia funziona. Credo che potrebbe andare anche meglio Antonio, perché mi hanno dato conferma che sale di più, però sinceramente io non ne capisco, poi ci vuole qualche cosa per poterlo provare, insomma. Vabbè, ma già va bene così, mi accontento. Poi lo metteremo sotto i fiori anche a lui, ne vale la pena, dai. Poca spesa lo metto Massimiliano, tanto che costeranno 5 euro, 4 condensatori, volevo discutere. Sì, sa, guarda, lo spento. Sì, è così, Ti cambi quelli e lui va, alla grande va. Ah, sono sempre cose. Come mai non l'hai più acceso? Lo potevi accendere ogni tanto, che gli avrebbe fatto bene. Perché non ce l'avevo io, capito? Me l'hanno regalato, se provo, lo uso, lo fai, fai quello che vuoi, però non era in uso, io l'ho trasformata e lo sto facendo andare. Piero, ti stavo per mandare un messaggio, sì, li ho visti, ma non capisco quello 350 V, così è, 100, cosa vuol dire? Microfare questo è. Microfare, quindi è 100? Sì, 350 V, 100 microfare, l'altro è un po' più grosso, a me da un agoggio, l'altro è un po' più grosso, però di questo ne ho solo uno. Io solo uno, ne avevo quattro di questi, perché ne avevo recuperati da un 2001 li avevo buscati, però gli altri tre non li trovo, l'ha già saputo uno giuro. Ho capito, no, io ho letto che c'era, uno sono riuscito a leggerlo 500, c'era 500, però non so quanto della microfare era, capito? Ah, quindi non andrebbero neanche bene. Vedi, questo qua magari, questo è tutto un alluminio, questo potrebbe andare bene. Ma perché di nuovo, ma sono scoppiati, perché si vedono lì, se sono gonfi. No, non è a 2, è a 4. E ti dirò la verità, che apparentemente, a mio avviso, sembrano anche in buono stato, però mi hanno dato conferma di cambiarli. Ah, ok, da. Ok, però vogliono misurarsi, capito, per non essere solo in perdita. Insomma, in genere un condensatore, quando in perdita inizia un po' a gonfiarsi, a perdere un po' di liquido e quant'altro. Vabbè, comunque va, cambiare costa poco, costano pochissimo. E sono anche facili da cambiare. Sì, bisogna smontare quel pezzo di circuito stampato che ha, scioglierlo, toglierli e cambiarli, ci vuole tempo, vuole fatto con calma, no? Io adesso al momento non ho neanche la postazione per poter fare smontare, io sono con un tavolino mignon, la scrivania è piena di portatili, l'altro computer, come ho detto il massaggio, no, che è, quindi. Tu pensa, per fare il PL io ho dovuto spostare, togliere per tutto il PC portatile con suo supporto, tutti i fili e quant'altro. No, non ho posto per poterci lavorare. Vabbè. Ma signori, nel frattempo a me mi ha chiamato, mi ha avuto a scendere, che è pronta la cena, va? Ok? Non so se riprendo dopo perché la sveglia suona presto, però se in caso riprendo, va? Ok? Ciao Tiro, ciao Antonio, ciao Claudio, tutti quelli che stanno ascoltando, va? Ciao ciao. Ehi, Massimiliano, dai. Ci si riascolta, anche a me, anche io devo mollare, dai, perché almeno faccio qualcosina e poi anche per me sono appresso, anche se sono vicino, però alle 7 dove si è portato. dottore, quindi tra una cosa e l'altra devo mollare. Va bene, dai, ci sentiamo. Ciao Massimiliano. Ciao Antonio, aspetto i saluti, poi vado via anch'io. Via, ciao Massimiliano, ciao anche a te. Oh, ma volevo dire in fretta. Ciao Tino, ciao a tutti. Aspetta un attimo che non ho sentito, avanti ti. Ehi, gli ha detto non c'è problema, ciao, chi era l'altro, avanti. E beh, sì, e beh, Tino. Ui, ciao. Sì, mi ha appena rientrato, anche io domani mattina mi ho alzato il prezzo, perché mi devo girare il cucino. Mi alza alle 5 per girarmelo, dai, sennò non mi sono alla sveglia. Cazzo. E io sto mollando lui perché sinceramente devo preparare due cosette qua a casa e poi mi preparo per roba di lavoro tutto quanto. Stirata del prezzo, giusto che sia così. Ma oggi ero in campagna e diciamo che stavo bevendo con col padre di Marina, poi lo zio del cognato, lo zio di Marina. E tra una cosa e l'altra sono fatte quasi le tre, che mi sono commesso in ciccia, due, e poi mi ha preso questo abbiocco. Va bene, dai, sono contento per te, ogni tanto ci vuole. Vabbù, ciao, divertitela. Ciao Muccolo, ciao. Ciao Tino, ci sentiamo, ciao. Ciao Tino, ciao, vedi bella? Mamma mia, l'ho messo. E vabbè, poi è pieno di ugini. Mamma mia, ma c'è già una voce. Vabbè, dove fa? Tanto si vive solo una volta, ogni tanto bisogna farlo, va. Venga, se ne affuggi. Gappa, e la gente quando siamo vicini di casa, tu vuoi trovarci? Ma io giù non c'ho niente, no. Cosa? Vicini di casa, io giù non c'ho nulla in campagna. Vabbè, ma andrai la domenica, quindi ci vediamo. Ah, lì potrei portare il portabile. Non ti preoccupare, non te la fottimo della radio, non dobbiamo mangiare i bicchi. Allora, vabbè. Ma se la diciamo, può far vedere la radio. Mangiare bene, per il bella. Beh, canta la tartarizza. Luca, faccio vicino la domenica. Problemi? Dico, mi invitiamo anche Antonio. Antonio, tu ci porti qualcosa di dolce? Arrigo a garri, arrigo a russi. Sì, una delle cose che voglio dire a fammi. Cappa, arrigiamo un poco di mezza, un poco di garri e ci divertiamo a russire. Ah, da qui c'è cerco di fava. Non ve ne piaggo i papà, no. Andiamo. Oh, c'è la vostra PC, si è a posto. Senta che sia a posto. Si spegneva. Ho cambiato l'alimentatore. L'ho resettato. Poi dice, ok adesso. Quello già lo sai tu quello che devi fare, dai. Dai ragazzi, sono entrato a abbassare il volume. Già, ci sentiamo dopo se ci siete, che vado a pappare. Ciao! Io sono qua, là, sono qua pure io. Ehi, capo, cara, ci sentiamo. Cazzo, bagassare il vento che si è messo. E la giuvica, ya. È muggente da una parte all'altra. Cara, mi sa che è girata a maestrale adesso, Oh, Tino, ci sei? No, Tino, Sarrado. Guarda che c'ho sempre quel famoso CD tuo, mi. Ah, se me ne sono ricordato, c'è un DVD, lo sai, il tuo figlio, boh. Di cosa? Boh, non ricordo. È la vecchiaia. Dimmi, che non ho sentito, Luca. E ho detto, sto lo dico di Osai, aspetta un attimo, metto i piccitti, se che non va voluta. Un CD, boh. Ma cosa è un DVD, aspetta. Allora, Shrek. Vabbè, non è niente interessante. Pensavo che era la roba sua di foto. Ah no, ma mi ha detto che lo volevi indietro, ci mancherebbe, è roba tua, non è niente. Mi ha detto un paio di volte, vabbè, poi ci sapeva il telefono di sua moglie, ricordatelo sempre. Già lo so, cerca di aiutarlo se ci riesci. Ti dovrò trovare quel modello lì, con una scheda buona, se è la scheda, non lo so, non ci siamo messo le mani io penso che potrei fare una batteria, come con un'altra batteria, tante prove si fanno, come il computer, vedi, questo qua non andava, si spegneva, vabbè, si spegneva perché c'erano le ventole sporche, intasato proprio. Le ho pulite bene, dobbiamo prendere il vostro PC. Ne ha una nella scheda video e l'altra nel processore. E vi faccio lo stesso problema. Ah, sono solo, ho resettato, ho cambiato l'alimentatore, per il momento è a posto. Purtroppo è così. Non c'è problema. D'accordo. Sì, no, quando uno è intelligente come me. Oh, qui ti parlo in salsicce, mi lo sai. Cosa ti? Ho detto che ti parlo in salsicce. Andiamo proprio, Patrizia Mona. Andare, ma buh, ciao, che stavo chiudendo, ciao, ciao. Ehi, ciao ti. Eia, domani lavoro. Sei in campagna, costano mi a casa, là. Lo dico qua in frequenza, per me per Marina. Veramente? E allora, per me, c'è il terreno, stiamo costruendo. Ma vedete di la pizza? No, seconda casa. Ah, ho capito. Così è, sul progresso. Ehi, è bello lì. Ciao, qua lì è bello, lì è bello. Non decidi di conservare il sud e poi li investi così. Già va bene. Adesso faccio pure un telefono. Ci siete contenti voi? Antonio, nella vita bisogna essere contenti, altrimenti non si va avanti. Cappa. Avete scelto così e va bene. No. Perché tu avresti voluto la casa lì a Pisa? Io? Sì che sono venuto. Ma ho detto, avresti voluto la casa a Pisa? Sì, non me la fotti nulla. Ma che ti guardava da un mese, da affitto, in base al reddito? Sì, ma l'avrei presa. La capa. Solo che vedrò fa niente, strana, ci devi convivere, me. Vabbè, c'è gente baffa, gente che fa schifo veramente, cioè. Fanno un casino, buttano roba o bottiglie, lasciano tanta la mondezza lì. Un casino veramente qua. Non ho parole. Sì, non vedo niente brutto attente, beh. Qui c'è un randaggi. E cosa vuoi fare? Nuda, purtroppo non puoi fare niente. Cappa, io non so come funziona lì. E tu sei meglio di me? Sì, tutti prepotenti, tutti prepotenti. Sì, vabbè, se vuoi fatto. Purtroppo, Lucy. Non conosci a cosa in Kiwi, a Cacavava? No. Io, se ti guardi, già lo conosci. Chi si chiama lo circo in Kiwi? Non ti vedo la 10 a prima. No, non li conosco, Antonio, sincero, non li conosco. La vende un bel potente, la vende. Cioè, ma posso rimanere in alto, la dico tu c'è Zusa, ragazzi. Che fa? Un po' di tempo va. Tu si crea sei forti. La dico tu in terra. Se non me lo può cadere la mano, cazzo te l'ammazzende. Che carità, si crea lo porta, pure un figliolo me ne è giuntato un badde. Pure in che cazzo l'ha cercato un paio di gazzotte. Oh, lo riconosco. Marco di Candela, la prossima volta mi comporto diversamente. Antonio, già mi niente in sala in giro. E devo riaccudire a me. Attinandi. È andata male, così. È andata male, sì. Ci siamo di guerra. Dove vai, meglio, sai cos'è? A giorno d'oggi nessuno usa le mani, mi ricordatelo. Usano le armi, un attimo mi atto. È meglio, lo so. Molte volte è meglio passare per guasti. Ma me la sta dietro rimane, io non ho aggiunto nulla. Me la sta dietro rimane. E come ti ha fatto rimane, ti sei combattuto. Fai la bravo, io non ti ho fatto niente. Cioè, mi stai accusando, mi stai aggredendo. Lo so, tanto, purtroppo hai ragione, ma meglio molte volte passare per guasti. A chi, ripeto, non è data nessuno più umani, E vabbè, in che su caso è trovato a due mani, grazie a sapigliare un golpe. Hai battute. Mi dice, vediamo un po' così. Cuffia. Eia. Ecco qua, tanto incolla. Vabbè, tanto guarda ci vuoi fare. giro. Molto strana, molto. Allora, sono tutti voce, so. Mamma mia. Dopo che quando... Cioè, che dopo quando pigliano i gol, per allora... Allora, si, cioè, non è fare vittime. Così come entra la borsa sotto la bucciare, a Ghindo. Cioè, stiamo mettendo la bici in magazzino, lasciami, lasciami. E ti posso? Allora, tu vai dinni, vai dinni. A pigliare due cazze e mi è passato, ti ricordo che sta basata di bugne. E non sai chi ti sa quando ti sono usciti. E no cazzo, e non ti ha già fatto nulla. Dove va, purtroppo, casino. Io sono bravo con tutti, però no, non mi devi provocare assai, no? Non mi devi provocare molto perché sennò divento un bel cattivo, cioè so gumare un BM. Io non ti ho fatto niente, cioè ti do gurugole a tutti, però non mi provocare che sennò mi macciappe. Ah, io guarda, lascio passare in cavalleria sempre, la verità, non mi interessa. C'è gente convinta, un bel... lascio fare, non è che mi interessa più di tanto. Sì, ma se io dico vai dinni, e ve la accudimmi, la cosa cambia. Beh, certo che cambia. Tu hai ragione del mondo, Antu. Non hai tutti i turti. Tu hai ragione del mondo. Allora, ecco qua, questo qua. Mamma mia, sono stanco, cazzo. Mi sono messo in campagna, me lo trumendi. E poi mi sono fatto lì dalla 25, mi sono proprio drummito. E poi punta, ti sei cicciato. Già non credo che ti sei drummito. Che ne vuoi, niente? Mi scappa. Già li conosci già. Più o meno magari. E mi sto parlando con Sara, ha detto, ma conosci tutti chi si invece in chime. Magari tu no, ma Marina forse già li conosce. No, Marina c'è 12 anni lì. Anzi, no, di più forse, se non mi ricordo, forse una quindicina d'anni. No, non conosce nessuno Marina lì. Vabbè, cosa? Tu non lo conosco, fatelo dato a 25, lo conosco da una vita, ma ci vogliamo una ragazzina con Tore. Una cara e due. Ma come si è sempre comportato bene, lo posso dire diversamente, eppure, ci mancherebbe. Come si è sempre comportato bene, mi ha sempre rispettato. Ciao ciao, ognuno a casa sua. Lei ha detto quelle così, ma se non conosce me, magari dai. Come conosco la ex, là, che abita vicino a casa mia. Ho capito. Capito, conosci a Sara, no? Sì, sì, anche la figlia è bella grossa adesso, cavolo, si è fatto un bel grande con la ragazza, si è fatto un bel grande. Sì, sì, è la nipote di Sara, e mai non va a capo, non è una persona che la capi lì. No, ognuno sceglie la propria strada, Antu, non posso giudicare, lo so, ripeto, lo conosco tantissimi anni, forse tu manco un altro. Due spiviti, andiamo a tenere uno conosciuto. Lo so, Goya. L'ultima volta, cioè l'ultima volta mi ha fatto incazzare un bel. Se lo volevo pestare forte, che era imbarazzo, cioè ero con un dubbio in mano, io se non avevo avuto voce, ma ne filmato male. Ehi Antu, io ti dico che... Ma perché? Perché? Ma putti di, non so. Molte volte, guarda, è meglio lasciar perdere, te l'ho già spiegato. Esperienza, capito? Poi ognuno può fare il male di piazza, attenzione. Meglio quelle volte basta qua guardi, dimmi. A chi poi ti comprometti è un casino, è meglio di no. Poi se tu hai quel tipo di carattere, te lo sconsiglio. E così, un attimo Mirato, un attimo. Da volte diventi un'altra persona, è meglio evitare. Perché magari lo cudini, poi ti tenta, magari ti bugni. Ma cosa bugni? Che trovo carotta, a me bugne. Se non state attento, ha rischiato di buttarci dalla finestra. Ma secondo te, a me che mi tocca Sara, io ne rivolgo ragazzo, ne rivolgo. hanno posto le mani in alto a Sara, secondo te la può lasciar perdere? Ma stai scherzando? No, vabbè, c'ha ragione Arturo, ci mancherebbe. È un casino, purtroppo è un casino, veramente grande. Allora, io ho visto un amico che, guarda, per cazzate era più morto che vivo, eppure il cucù di mio Arturo, il cucù di un bue. E lo racconto io da terra, era più morto che vivo. Ehi, ma non ti preoccupare che sono due boccarotte. Guarda, se erano scappate a Babbo e Figliuolo, se no l'aveva tutti i voce tra il gaggia, ma l'ha fermato la polizia, ma l'ha fermato, perché stavano spaccando tutto. Ehi, vabbè, tanto. Ma potetini, viviti la vita e fregatene. Ma appunto, meno male che siamo riusciti a pigliarti questa cosa, questa gaggia, se manco male. Se no, oioia, lascia perdere. Se no, l'abbia picchito a ghiso. Infatti, non voglio avere nessun tipo di rapporto, no, non mi interessa. E via, ognuno per la sua strada. Cosa ne fate un elemento del genere? Ah beh, senza dubbio. Senza dubbio. Non ne fai un danno. Vabbè. Poi io sapevo qua. Un casino. La prossima volta che tocca a Sara. Non di no, non mi incazzo né niente. Parto, io lo manganello zazzo. Fatto, ne butto la porta, vado, gatto, e comincia a picchiare forte, no. Non me la fotti nulla, cioè proprio a picchiare la cecca. Ma forse Berome, ti posso vedere che è Antonio, ti posso vedere, cioè. Ma fortemi, senza fermarmi più. Quando arrivi nelle autorità, cazzo, l'ha fatto giù canto cazzeggato. Sai cosa che poi? Lo fai oggi, lo fai domani e poi ti incasini la vita. Ma che altro guardi qua? No, non è che lo posso oggi, lo posso domani, lo posso quando vengo a rompermi le balle, scusando dalla frase, lo faccio quando vengo a rompermi le scatole. Sto dicendo che se tocca e non Sara, se uno solo si permette, non gli dico niente, parto, vado lì e faccio un casino. Beh, certo. D'accordissimo con te, Antu. Super d'accordissimo da te. Cavolo, sto facendo di tutto per proteggerla, per non toccarla a nessuno. C'era niente buono di mano in alto. È l'ultima volta che loro fanno una cosa del genere. Babbo e figlioro. L'ultima volta lui. L'ultima volta, poi non esigo più niente. Da voi vi cudo voce. Ma forte per me. Non me la putti nuda. Certo che così. Se altra fa danni, tanto l'ha più fatto, io lascio perdere. Non me ne frega niente, mi vivo la vita mia. Me ne frego di tutti. Lo so, però nessuno si deve permettere a fare quelle cose lì. Perché io ripeto, io la proteggo, no, non voglio che nessuno gli alzi le mani, ne la tocchi nessuno, perché la voglio far vivere bene. Cioè, se poi qualcuno può permettersi come hanno fatto, l'hai fatto lo ciugnetto, quei due pezzi di merda, secondo te devo lasciar perdere? Ma io ti capisco, Antonio, io ti capisco, non so, diciamo, non c'ha ragione. Però purtroppo, sai, in questi tempi non è come negli anni, cosa ne so, anni 80, anni 85, che usavano le mani, non datemi più un manino, Antonio. Ma io uso ancora l'anno 80, mi tocca la Sara, il tratto rimane. Ma il tratto davvero, Baromi, altro tratto rimane e le armi pure. Vabbè, poi ce la pensiamo diversamente, non so, ma ti capisco, se tagli così allora vivi male. No, io non vivo male, io voglio solo che ci sia il rispetto, se nessuno fa niente, no, io non faccio niente, cioè, non vado a rompere le scatole agli altri. Cioè, se tutti mi rispettano non vado a rompere le scatole a te, cioè. La cosa è così, io non vado a rompere scatole alla gente, capito? Però se si ti muova a fare che cose, allora cambio carattere. Beh certo, come tutti, Io non ando a fare, non ando a fare le cose a te, quindi, ma cosa devi venire tu a me a farmi le cose? Esatto, vabbè. Casino, la quotidiana tu va, fregatene, fai come me, fregatene. Certo, non devi venire qui a bisogna duia, ci mancherebbe. Però se puoi evitare, evita, perché poi è un casino. Noi siamo qua, cioè siamo per le pazzinozze, stiamo evitando, non stiamo andando a rompere le scatole a nessuno. Cioè, però si ma ciappano i miei proprio. Quanto è tutti ovvio? Cappa, ti ripiace se uno del palazzo d'oglio anda con la pizzina d'oglio, penso che ti giri o li baci. No, assolutamente no. Non esiste proprio. È la stessa cosa, io voglio vivere bene, voglio vivere, ma sto proteggendo da queste cose perché non voglio più che accadano, non voglio, e quindi perché la tratto bene e la voglio molto bene, e gli altri non si devono permettere manco di avvicinarsi a lei. Giusto, ma giusto, beh, avrei a fare. Non esiste, no? Lo so, io è un casino. Io questi problemi li dico c'erano in famiglia. Forse burbeggio. Davvero? Vabbè. Da poco c'è stato. Aspetta un attimino, aspetta. Secondi. C'è stato. Mi sono attaccato forte. Ma da che parte? Dai genitori suoi o cosa? No, casa mia, no, parenti. Mamma mia! Sono qui da Carae, quella scala pesante che mi aveva regalato Claudio. Se la giucutea andata la bicicletta. Cappa, ma tu avrà detto, no? Era incazzatissimo, mamma mia, va. Infatti poi ho evitato, perché poi sei così altro. Che vivi male, nel senso che... stare poi dietro la giustizia, è quello. Io non ho problemi di, grazie a Dio, non ho precedenti penali. Non penso che quando ce lo meritegge, se lo meritegge però. Lo so, ma io cerco di evitare, capito? Cosa vuoi fare? Però no. Non andare bene, se ci cosi non andare manco bene. No, assolutamente no. Magari. Aspetta un attimo, sta provando un computer, aspetta. Via, wifi. Ora. Oh Lu, io chiudo, dai, buonanotte. Sono stanco, sono. Buonanotte Lu. Ciao a tu, dai, buonanotte anche a te, a domani, ciao. Ciao. Io chiudo che c'è quel tracco.